Registrazione a cura di Scatola Nera. Il contenitore. Va bene, allora ringrazio innanzitutto i compagni del Mulino che ci danno la possibilità di presentare questo libro che è stato pubblicato, ripubblicato qualche sei o sette mesi fa. E così l'occasione di ripubblicarlo è stato quello di festeggiare, in un certo senso, di commemorare i 100 anni dell'Associazione Nazionale del Libero Pensiero. Era l'anno scorso, ma coi tempi che abbiamo di impostazione, di lavoro, di ricerca e tutto, slittiamo sempre, ecco, finalmente è arrivato. Slittiamo sempre di qualche mese, quest'anno praticamente è il 101esimo, però così il libro mi sembra sia abbastanza interessante. Ciao. Ecco, è arrivato l'altro curatore, Setat Ki. Stasera non parlerò tanto del libro in se stesso, ma diciamo di cose a lato, nel senso che il libro è facile da leggere e dunque lo si può prendere, c'è anche in biblioteca, non c'è bisogno necessariamente di comprarlo, però mi sembra più giusto trovare degli altri spunti o altre occasioni per avere delle verifiche sul fatto che un libro scritto 105 anni fa ha ancora un'attualità sia dal profilo del contenuto sia da quello che era un po' la storia o perlomeno le ricerche che aveva fatto Milesbo quando l'ha scritto, in pratica le sue intuizioni o le sue ricerche o le sue comunque messe in rete di queste conoscenze sono state confermate. Confermate da studi successivi, da ritrovamenti successivi anche, non so, parlo per esempio, si può parlare dei manoscritti di Qumran, anche quelli in pratica confermano un po' il fatto di questa figura mitica, di questo Gesù Cristo, che non è effettivamente esistito, ma sono esistite delle persone che potevano in un certo senso incarnare questa figura di questo profeta o di questo messia o di questo mago che alla fine ha una vita molto, molto poco conosciuta o praticamente per niente conosciuta. Io parlo velocemente di Milesbo, poi passo subito la parola a Edi, visto che è arrivato, che può spiegare un po' meglio del personaggio. Semplicemente dico due cose. Emilio Vossi si firmava Milesbo quando scriveva una buona parte degli articoli o dei libri, ha scritto diversi libri, è nato nel 1870 ed è morto a 50 anni e penso in pratica anche per esaurimento del lavoro, nel senso che ha fatto di tutto, ha fatto l'avvocato, ha fatto il giornalista, ha fatto il direttore di giornali, ha fatto il consigliere di Stato, ha fatto il procuratore pubblico, ha fatto il consigliere, il municipale di Lugano, il Consiglio degli Stati, era il direttore di alcuni giornali, è stato il direttore anche di Gazzetta Ticinese per alcuni anni e poi era anche, mentre stava scrivendo il libro proprio nel 1903-1904, era direttore del giornale quotidiano ed era anche il redattore della Ragione, che era l'organo del Libero Pensiero, della Società Ticinese del Libero Pensiero. Hai già detto tanto. Ma magari per inquadrare politicamente Milesbo, allora bisogna vederlo nel periodo storico in cui ha operato. Milesbo, politicamente, io credo, mi sono fatto una convinzione, nonostante avesse aderito a un certo momento alla Costituzione anche del Partito Socialista, perché il Partito Socialista nasce nel 1900, quando Milesbo è già attivo politicamente, a 30 anni, ecco, aderisce al Partito Socialista per poi staccarsene. Fondamentalmente Emilio Bossi politicamente, ideologicamente è un liberale, però un liberale di quella che allora era l'ala sinistra di questo movimento, tant'è vero che è tra i promotori dell'Unione Radicale Sociale Ticinese, che presenterà anche delle liste per il Gran Consiglio e per il Consiglio di Stato, Unione Radicale Sociale Ticinese, dove operavano delle personalità del mondo liberale, aperte però verso le istanze della sinistra e del movimento sindacale. Tant'è vero che questi personaggi si incontrano anche, lo ricorda Guglielmo Canevascini nella sua autobiografia, si incontrano anche alle riunioni della Camera del Lavoro. Ecco, sarebbe più difficile concepire oggi una cosa del genere, vedere dei liberali, salvo qualche esponente della vecchia guardia radicale, muoversi sul terreno in questo modo. Ecco, quindi fondamentalmente un liberale, però con delle aperture verso il socialismo, ma per Milesbo il socialismo è essenzialmente quello ispirato, potremmo dire, anche se non è proprio il caso, alle mutuo soccorso, che nascono proprio nel cuore del Partito Liberale. D'altra parte, anche il Partito Socialista Svizzero, che prende le sue origini dalla società del Grütli, ha una prima matrice nel campo radicale e non in quello conservatore. Ecco, quando dico fondamentalmente un liberale, lo dico soprattutto perché Milesbo, e sarà lì la sua grande rottura nella parte finale della sua vita con la sinistra, ecco, rifiuta certi concetti che erano e sono ancora oggi in parte patrimonio della sinistra, o perlomeno di una parte della sinistra. Penso in particolare all'idea della lotta di classe. Lui concepiva, accettava, condivideva le regole del mercato in ambito economico e immaginava una forma di progresso sociale nella quale la democrazia che in Svizzera e in Ticino la democrazia è stata portata dai radicali già nell'Ottocento, perlomeno a partire dal 1830, con il periodo della rigenerazione in vari cantoni, anche in Ticino, e poi soprattutto a livello federale, in corrispondenza con la Costituzione del 1848. Ecco, Milesbo immaginava un'evoluzione della democrazia liberale in senso anche economico, cioè vedeva il principio dell'allargamento dei principi democratici all'economia, ma non ha mai messo in discussione nei suoi ragionamenti il potere di una classe dominante della borghesia, per quanto questi concetti potessero allora già essere molto chiari in Ticino, perché sappiamo che il Ticino vive una grossa situazione di arretratezza economica, ritardo nell'industrializzazione, eccetera. Quindi sì, una personalità progressista, però ben ferma nel campo liberale. Dico questo, la conferma viene poi da alcune sue prese di posizione e suoi atteggiamenti che ha nel 1917. Milesbo non solo è critico, ma condanna la rivoluzione russa, lì ci sarebbe poi anche un perché sul quale mi soffermo dopo, e soprattutto, cosa più grave, verrà duramente attaccato anche dallo stesso Canevascini, si schiera contro lo sciopero generale del 1918 diretto dal comitato di Olten, che è stata forse e senza forse la più importante lotta operaia vissuta in Svizzera nel secolo scorso. Il motivo in parte è quello che vi ho detto, l'altro motivo, ecco, il Ticino in quel periodo è, mondo culturale specialmente, ha nel suo patrimonio, nel suo DNA, la difesa dell'italianità. Ecco dunque che mi lesbo durante la prima guerra mondiale non è un neutralista o un pacifista, come non lo è tutta la sinistra, come lo è invece una parte della sinistra, in particolare del movimento socialista. È interventista a favore dell'Italia, proprio per questo concetto di affermazione dell'italianità, l'Italia che è schierata contro in particolare l'impero austro-ungarico, quindi contro le grandi potenze reazionarie dell'epoca, contro la Germania, e lui sostiene in modo fermo il principio della partecipazione alla guerra. Ho già citato Canevacini, e proprio nell'autobiografia, peccato che non l'ho portato stasera, nella sua autobiografia Canevacini dice: attenzione, lo sono stato anch'io interventista a favore della guerra, lo siamo stati un po' tutti, perché nella guerra condotta dall'Italia in quel periodo vedevamo una continuazione del Risorgimento, quindi di un altro moto rivoluzionario progressista che ha caratterizzato l'Ottocento. Milesbo muore nel 1920, non è ancora tempo e ora di parlare di fascismo, ecco, perché poi in Ticino, lo dico in modo un po' semplicistico, forse alcune di queste tendenze di simpatie verso l'italianità sconfineranno anche in una simpatia per il regime fascista. Questo per inquadrare politicamente il personaggio. Una cosa importante, io l'ho già detto a Bruzzella e ci tengo a sottolineare ancora una volta, che caratterizza Milesbo, al di là delle sue idee, delle ragioni, dei torti suoi, è lo stretto legame in questo personaggio tra l'attività politica e la cultura. Ci sono politici oggi che curano l'immagine, parliamo oggi di politica personalizzata, altri che curano le relazioni d'affari. Milesbo invece, ma non è l'unico caso, è ricco l'Ottocento ticinese di personaggi di questo tipo. Lo stesso Manzoni, Romeo Manzoni, che poi si staccherà dalla politica un po' deluso, ecco, è uno studioso che fonda la sua azione politica sulla cultura, e poi ve lo dirà meglio di me e di Zarro, lo si evince, ci se ne accorge vedendo le fonti alle quali lui fa riferimento per questi libri. Quindi politica, ricerca e studio sono in Milesbo la stessa cosa, e Milesbo è attratto dalle tendenze culturali, definiamole tra virgolette progressiste per intenderci, se non proprio di sinistra, che dominano in quel periodo. Quella principale rappresentata dalla scuola filosofica positivista, che vede nella scienza l'occasione di affrancamento dell'uomo, di liberazione dell'uomo dai pregiudizi, dalle superstizioni che hanno caratterizzato la storia, che qui taglio un po' corto, quindi vede nella ragione, nell'uso dell'intelligenza, la via perché l'uomo possa essere libero, e da qui arriva la sua durissima critica alla religione, direi a tutte le religioni, che lui vede come forma di superstizione e comunque di arretratezza e di sottosviluppo culturale. Questo in ambito filosofico, ma credo che di quello parlerai poi tu un pochino. Ecco, quindi cioè, chiaramente emerge, beh, basta il titolo, Gesù Cristo non è mai esistito, l'elemento di novità è che Milesbo mette in campo una posizione di ateo militante, quindi rifiuta Dio, quello con la D maiuscola, quelli con le D minuscole, arriva addirittura a cercare di dimostrare in modo razionale che non solo Gesù Cristo non sarebbe il figlio di una divinità, di un Dio, ma che addirittura nella storia non è assolutamente esistito, ed è la tesi che è sostenuta in questo libro. Ateismo che si sposa con l'anticlericalismo di Milesbo. L'anticlericalismo caratterizza molte delle sue battaglie, prima in Gran Consiglio, poi nel governo cantonale. Lo dico con una battuta, io mi chiedo se oggi un politico qualunque di qualsiasi partito, compresi i partiti della sinistra, si mettesse a scrivere un libro con questo titolo, riuscirebbe ancora a farsi eleggere in governo. Lui ci è riuscito, il vescovo direbbe, quasi i vescovi direbbero i misteri della fede, ci è riuscito. Bene, anticlericalismo, che direi l'elemento di novità, i liberali e i radicali, anche i primi socialisti, durante l'Ottocento, non erano necessariamente, erano anticlericali, ma non necessariamente atei. Operavano in una realtà sociale dove il clero aveva un potere temporale molto più importante di quello di oggi, insomma, ecco, controllava terre, attività economiche e evidentemente loro, anche nell'ambito della formazione dello Stato liberale, avendo bisogno anche di mezzi finanziari per creare scuole che non esistevano, per migliorare l'istruzione pubblica, ma anche per altre opere pubbliche, avevano bisogno di queste risorse, dove andare a prenderle, dove queste risorse c'erano, e quindi ecco la critica al potere eccessivo in ambito economico e politico delle cerchie clericali. Ma non necessariamente siamo, questo dipende o discende o si collega a una visione atea del mondo o agnostica del mondo. L'Ottocento è caratterizzato da un movimento, ad esempio, che si chiama Kulturkampf, che attraversa anche diversi cantoni svizzeri, che non voleva la distruzione delle chiese o della religione, voleva invece la sottomissione della Chiesa e soprattutto dei suoi beni allo Stato e nell'interesse dello Stato. Se voi andate oggi, ne parlavo ieri con un collega giornalista a Berna, se voi andate nei cantoni della Svizzera romanda, per esempio nel canton Vaud, che è un cantone laicissimo, laicissimo, uno dei pochi che ha votato contro l'iniziativa per il divieto della costruzione di minareti, cantone dove anche politicamente dominano forze radicali e insieme alle forze di sinistra, le chiese, i conventi, tutti i monumenti religiosi, sia della chiesa cattolica sia di quella evangelica, sono proprietà dello Stato e dei comuni, che provvede anche al loro mantenimento, però evidentemente poi la Chiesa deve, o le Chiese, il clero, devono tener conto delle opinioni e dei pareri dell'autorità politica. L'autorità politica è superiore a quella religiosa. Ci sono altri casi, Ginevra, dove invece nessuna religione è riconosciuta dall'ente pubblico e dove vige il principio che era quello introdotto in questo periodo proprio da Milesbo e da altri, della separazione tra lo Stato e la Chiesa, per dirla parole molto povere e un po' banali, il prete in chiesa, il maestro a scuola e il sindaco in municipio, quindi ognuno a casa sua. Il crocifisso in chiesa, ma non negli ospedali, ma non nelle scuole, senza negare la costruzione di chiese, edifici religiosi e il diritto dei preti di comunque operare nella società, ma nella società civile e in ambito privato. Quindi il massimo rispetto delle opinioni di ognuno. Tant'è vero che Milesbo arriva addirittura nell'Ottocento, in Ticino, i liberali non solo teorizzarono, ma riuscirono a recuperare un po' dei beni che la Chiesa era riuscita a accumulare nel corso dei secoli. E lui addirittura arriva a proporre: restituiamo tutto quello che abbiamo tolto alla Chiesa, però poi si taglia il cordone ombelicale, e quindi vuol dire che dallo Stato, dai comuni, la Chiesa non prenderà più un centesimo. Ecco, quindi due elementi di novità: da un lato l'affermarsi di una visione atea, agnostica, organica, resa possibile e favorita anche dallo sviluppo conosciuto della filosofia. Ho parlato di positivismo, ma io aggiungerei anche in ambito scientifico le scoperte, o comunque la teoria evoluzionista di Darwin, che pubblica l'origine delle specie nel 1859, quest'anno sono 150 anni, e che senza essere considerato un'opera necessariamente improntata, in ogni caso mette fortemente in crisi tutta la costruzione e la visione del mondo proposta dal cattolicesimo, sia riguardo all'origine dell'uomo, ma direi anche di più, questa teoria, ed è quello il dato essenziale, smonta completamente l'ipotesi secondo la quale il mondo, l'universo, il mondo, la Terra, eccetera, si sono sviluppati e si sviluppano con un, secondo un percorso finalistico, dove al capolinea, come essere superiore, c'è l'uomo. Quindi scoperte scientifiche che aiutano a sviluppare una migliore coscienza, o comunque la critica dei fondamenti della religione. In ambito filosofico ho citato il positivismo, lo devo dire, mi lesbo mostra di conoscere, comunque cita Darwin e cita anche altri autori interessanti, per esempio Nietzsche. Che poi è stato un po' violentato dalla critica, ma che comunque rappresenta un caposaldo importante nel passaggio dalle visioni metafisiche del mondo alle visioni razionaliste moderne. Quindi questi autori hanno un influsso importante e aiutano questo avvocato nato nella piccola Valle di Mugio, ma che poi ha studiato a Ginevra, a rivedere o a contribuire a rivedere e a correggere alcune posizioni che avevano dominato il quadro non solo politico ma anche culturale nell'Ottocento. Ecco, cosa rimane oggi di Lesbo? Io credo, indubbiamente, questa opera va riletta con gli occhi di oggi. Abbiamo detto, si tratta di un lavoro del 1904. Però, intanto, e non voglio anche io ancora una volta invadere il campo di Zarro, intanto, se non le tesi, almeno gli interrogativi principali che lui solleva sono tuttora oggetto di dibattito, compresa l'esistenza o la non esistenza di Gesù, compresa l'esistenza o la non esistenza di Dio, o compresa la concezione del mondo. La Chiesa oggi ha abbandonato l'idea o ha abbandonato la lettura letterale della Genesi, ma continua comunque la Genesi intesa come libro sacro, ma continua comunque a insistere sul fatto, insistenza che non ha proprio nulla di scientifico a mio parere, che in ogni caso c'è una mano superiore che governa il mondo, quindi una mano non intesa in senso fisico, ma uno spirito trascendente, e quindi siamo alla divinità, sono oggetti di dibattito attuale. Quanto alle battaglie anticlericali di Milesbo, siamo nel pieno di queste battaglie. L'ultimo esempio sono le polemiche, le discussioni sulla presenza di simboli religiosi, questo indipendentemente dalla presenza o meno dell'Islam, che non mi sembra, al contrario di quanto si continua, anche noi in media continuiamo a far credere che sia così un problema così decisivo e importante per i destini della Svizzera o dell'Europa. Ecco, la presenza dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, quindi si continua a parlare di scuola, ma io insisterei anche sui tribunali, citerei qualche ospedale, citerei l'aula del Gran Consiglio ticinese, ecco, e sono tuttora, ripeto, argomenti di dibattito. Ma poi ci sono temi, i simboli sono i simboli, ma ci sono temi più importanti che toccano da vicino i diritti dell'uomo e delle donne, pensiamo alle discussioni che continuano, ad esempio sull'aborto, pensiamo ai freni che la Chiesa, bene o male, mette alla ricerca scientifica, stranamente solo quando la ricerca scientifica serve al benessere e al bene comune, come nel caso delle ricerche sulle cellule staminali, mai quando invece, o raramente, o in modo molto, molto debole, quando la scienza serve a fare cose devastanti, si potrebbero citare anche lì degli esempi, o ancora, di poche settimane fa, la notizia che il Consiglio federale vuole regolamentare il diritto al suicidio assistito. Stranamente, strano ma vero, ma siamo tra i paesi più liberali al mondo in questo ambito. Adesso c'è chi vorrebbe fare marcia indietro e quindi regolamentarlo, addirittura vietarlo, togliendo quindi all'individuo una facoltà che mi sembra elementare, essenziale, rinunciabile, cioè quella di disporre della propria esistenza. Per cui sia in ambito culturale, sia sul piano delle battaglie politiche, che magari non sono, alcune sono le stesse, altre sono nuove, credo che il personaggio Emilio Bossi meriti di essere riletto e rivisitato. Io mi fermerei qui perché so che Edi ha preparato una ricca documentazione, per cui non vorrei annoiare la sala. Grazie mille. Allora, dopo questo scurso sul personaggio, ritorniamo un po' al libro. Il libro è stato scritto nel 1904, è stato pubblicato in Ticino, in una coedizione ticinese e milanese. Questa copertina qui, che è quella che poi abbiamo usato, ti lascio solo, questa poi i miei delfini. Sì, sì. Questa copertina in effetti non è della prima edizione, è della seconda edizione, che ho trovato alla Biblioteca dei Frati. L'unica copia che si trova ancora di questo si trova alla Biblioteca dei Frati, ed è possibile, visto che è successiva al 1900, si può portare a casa, perché ho fatto le scansioni, eccetera, eccetera. Il libro, bisogna dire che ha fatto una ricerca notevole. Nel testo che ho curato, ho confrontato un po' quello che era il primo testo della prima edizione con quello della seconda, perché era quella che era uscita negli anni 70 ed era la prima che avevo letto una trentina d'anni fa, e così era interessante per vedere se c'erano state delle modifiche nel testo. In effetti di modifiche non ce ne sono, se non una maggiore precisione di alcuni termini e così. Però ho fatto un'altra ricerca, che era quella di vedere quanti testi ha consultato, perché non aveva una bibliografia chiara, era un po' confusa nello scritto, e alla fine ho scoperto che erano più di 50 libri, coprivano un arco di circa 60-70 anni, cioè andava da libri del 1850 al qualcosa prima, che penso 1830, fino a libri che erano appena usciti nel 1904 e così. L'occasione, diciamo, buona, diciamo, ha fatto un'opera di marketing molto interessante, perché pochi mesi dopo l'uscita era uscito nel mese di aprile, il mese di settembre Milesbo viene delegato dalla Società Ticinese del Libero Pensiero, assieme a Antonio Fusoni, sindaco di Lugano, cioè il sindaco di Lugano si spostava, ai tempi si spostava anche per fare non le cose solo economiche, ma anche le cose culturali o comunque di politica laterale, va al Congresso Internazionale del Libero Pensiero che si tiene a Roma. E Milesbo, visto che è il redattore capo di Gazzetta, e siccome è presente, manda regolarmente ogni giorno il suo contributo, cioè fa proprio la cronistoria del giorno, spiega cosa succede, chi conosce, quali contatti ha avuto. Grazie. quali contatti ha avuto, e probabilmente è un'occasione questa, siccome ha la possibilità anche di presentare il testo al tavolo della presidenza, di avere dei contatti internazionali, tant'è vero che l'anno dopo e 2 anni dopo cominciano a uscire le traduzioni in spagnolo e in portoghese. Questo per dire che il libro ha avuto un immediato successo notevole. La prima edizione è esaurita in pochissimi mesi, già alla fine del 1904 devono fare la seconda edizione, che viene stampata da lì via solo a Milano. Escono perfino una versione in dispense, che vendevano a 5 centesimi l'una, proprio per cercare di diffondere il più possibile, dicevano, per illuminare il popolo e toglierlo dall'oscurità del clero. Queste sono alcune delle edizioni. Sono quella in alto che vedete, quella portoghese, è una delle prime. Io ce l'ho, è questa, ma è un'altra edizione, cioè non è di questa. Era uscita nello stesso anno due edizioni, una da parte del Partito Socialista e l'altra da un gruppo radicale. Quella del Gesù Cristo non è mai esistito, col prete che scoperchia la pentola a Vaticano, e di un compagno anarchico morto un paio d'anni fa, era l'edizione La Fiacola di Franco Leggio, ed era l'ultima edizione in italiano che è uscita nel 1972, quella che avevo, era la prima che ho letto. Poi le altre sono edizioni spagnole, in parte quella sopra con la figura dell'Argentina, mentre l'altra è stata pubblicata in Spagna. Adesso facciamo un salto temporale per mettere un piccolo aneddoto personale, cioè sono 50 anni dopo il libro, 55 anni fa, allora è una vigilia di Natale, un bambinetto di 3 anni e mezzo aspetta il Natale, e allora va a letto tutto contento in attesa del Gesù bambino, e durante la notte, o durante così, mentre dorme, sente un rumore. Allora si sveglia e vede che vicino all'albero di Natale c'è un cavallino bianco che aspettava da diverso tempo. Naturalmente arriva mia mamma e dice: no, no, sta tranquillo, dorma, Gesù bambino le mie amore arrivati, no? E mi riaddormento comunque con in testa il cavallino bianco. Il giorno di Natale il cavallino bianco non c'è, semplicemente me l'hanno fatto sparire perché il Gesù bambino l'era mia portata. No. E allora comincio un po' così a avere il dubbio. Il giorno di Natale mi vedo, non c'è, aspetta, sparito il cavallo, probabilmente c'è qualcosa che non va col Gesù bambino, è così. Però Trian e Messler non era ancora così chiara. Comunque qualche anno dopo, non so esattamente quando, mi rendo conto che il Gesù bambino non c'è, e dico che probabilmente questo lo sanno abbastanza, probabilmente quasi tutti quelli che ci sono qui sanno che non c'è il Gesù bambino. Bene, stasera vedremo che, come non esiste il Gesù bambino, non esiste neanche un Gesù adulto, perché ci sono troppe cose che non sono chiare nella storia come viene raccontata. Allora, c'è un certo momento, comincia, questo è Natale dell'anno scorso, eravamo in casa di mio fratello, avevano regalato alla mia nipotina la prima Bibbia, e allora Nestore mi ha fatto la foto mentre lo stavo sfogliando. Comunque, una bella figura di merda. Comunque, ho avuto abbastanza tola da farla vedere stasera. E allora, boh, comunque, l'intenzione era quella di leggere anche le storie, perché dopo tutto le storie sono anche interessanti così, anche se cito uno dei miei autori preferiti, Mark Twain, che dice che della Bibbia ci dovrebbero essere due edizioni. L'edizione integrale per i preti e i credenti è quella edulcorata e comunque corretta, che dovrebbe essere quella per le persone, per le brave persone, perché è veramente un contenuto di atrocità, di porcherie di ogni genere. Comunque, c'è questa intenzione così di approfondire un po' il problema. Così, ma devo dire che il ricordo del cavallino bianco scomparso mi è rimasto e mi ha sempre lasciato abbastanza perplesso. Passiamo al libro. Allora, il libro, come detto, pubblicato nel 1904, è un documento molto, molto denso, molto preparato, si è dato dalla pena, e come dicevo appunto prima Edi Bernasconi, e come dicevo ancora prima, dico, è un qualcosa di una persona che si è data veramente la pena di ricercare, di sviscerare di mettere la faccia per far vedere le sue ricerche, e però è stato anche in un certo senso pagante, perché poi ha avuto una vita abbastanza piena, nel senso ha avuto figli, ha avuto una carriera politica notevole, ha avuto una carriera anche così culturale riconosciuta. Devo dire che ha scritto anche un altro testo molto, molto interessante e attuale, anche se i fatti che cita non sono più gli stessi, però li vediamo riscontrati adesso regolarmente in Ticino, in Italia, in Irlanda, eccetera, eccetera. Ha scritto un libro, prima l'ha pubblicato sul Pagine Libere, che era una rivista culturale, politica e scientifica del Canton Ticino, La degenerazione sessuale del clero cattolico, poi raccolta qualche anno dopo, nel 1909, da un editore di Napoli, che l'ha titolata un po' più pudicamente La degenerazione professionale del clero cattolico, ma il contenuto è esattamente lo stesso. La struttura del libro. La struttura del libro divide praticamente in quattro capitoli. Prima analizza il Cristo, questo Gesù Cristo, questo personaggio nella storia, cercando di vedere cosa c'è di reale. Poi lo analizza nel Cristo, nella Bibbia, cioè negli scritti proprio dei discepoli o dei presunti discepoli, oppure di quelli a cui facevano derivare questa figura mitica del Gesù Cristo. E poi la formazione personale del cristianesimo. Formazione personale è la formazione del cristianesimo senza necessariamente la presenza della persona di Cristo o della figura del Gesù Cristo. Allora, Cristo nella storia. Nel mondo pagano analizza quelli che sono degli storici del mondo pagano, che sono di poco successivi alla presunta età in cui è vissuto Gesù Cristo. Tacito, che nasce nel 55, dunque teoria 22 anni dopo il Metto Evi, seguendo Odifredi, era volgare, proprio perché, siccome non pensiamo sia esistito Gesù Cristo, sarebbe assurdo prendere conteggiare gli anni da Gesù Cristo. Autore degli Annali fa un cenno molto fugace sui seguaci di Cristo, ma non parla di Cristo in ogni caso, dunque è solo un minimo di accenno a una setta, a un gruppo di persone che fanno riferimento a un certo Cristo. Plinio il Giovane, in una sua lettera, accenna a una setta che inneggia a Cristo, cioè anche lì riconosce la presenza di persone che si rifanno a qualcosa, e chiede un po' informazioni su come si deve comportare. Lui è in quel momento è console in una provincia di Roma e non sa bene come comportarsi. Dice, dopo tutto non fanno niente di male, si incontrano la mattina e si mettono a cantare, dunque non sono così, non so come fare, probabilmente li lascio stare. Svetonio nella vita dei Cesari parla degli ebrei come fomentati da Cresto, e in questo ci sono delle interpretazioni differenti. Cresto non è un errore di scrittura. Cresto era un nome, significava il buono, era un nome abbastanza diffuso in quegli anni presso i latini, e parla praticamente del fatto che hanno dovuto cacciare gli ebrei da alcune province romane perché facendo riferimento a questo Cresto avevano creato dei problemi di ordine pubblico. Si pensa che Cresto fosse, era un nome abbastanza utilizzato, significava il buono o il valoroso, ed era utilizzato abbastanza da schiavi, e dunque si pensa che ci sia stata, probabilmente sta parlando di una rivolta di schiavi. Nel mondo ebraico ci sono due. Uno è il filone alessandrino, che è un filosofo ebreo di Alessandria d'Egitto, di quelli ellenizzati, di quelli che parlavano greco, anche se viveva in Egitto, e lui interpreta la Bibbia in una maniera platonica, proprio è un po' quello, la teologia, se volete, di quella che è la Bibbia, di quella che diventa un'informazione molto, molto religiosa, molto mitica, molto esoterica. È contemporaneo di questo presunto Gesù Cristo, ma non ne parla mai. E questo è strano perché l'altro doveva essere anche lui un ebreo, erano contemporanei. Filone era effettivamente interessato alla vita religiosa di quel tempo, e sarebbe impossibile che non ne abbia mai sentito parlare, e dunque è uno dei dubbi maggiori del fatto che esista. Flavio Giuseppe è uno storico ebraico, e anche lui nasce praticamente dopo la morte di questo Gesù Cristo, e nel suo libro Antichità Giudaiche, dove racconta praticamente un po' tutta la storia del popolo ebraico, sembrerebbe confermare l'esistenza di Gesù Cristo in un breve passo, che però è stato appurato che sia una interpolazione fatta da uno scrivano cristiano, come si dice, posteriore, che ha introdotto questo proprio perché mette delle frasi stranissime che non andrebbero bene per un ebreo convinto come era Flavio Giuseppe, nel senso che parlano del Cristo, quello che poi è risorto, e questo gli ebrei non l'accettavano, come di un personaggio che era effettivamente un essere divino, e anche in questo gli ebrei non l'hanno mai accettato. Dunque o Giuseppe era uno schizofrenico che aveva due personalità, una ebraica e l'altra cristiana, oppure semplicemente è stato molto più probabilmente interpolato, cioè nel trascrivere i suoi testi sono state messe delle frasi proprio per cercare di avere delle possibilità di confermare un po' l'esistenza fisica di Gesù Cristo. Il Cristo nella Bibbia, vado abbastanza veloce, nel senso che, come dicevo, nel libro è molto più spiegato, ma qui mi sembrava interessante andare semplicemente a togliere quelle che erano le parti più interessanti, o comunque dove si ritrovavano riscontri da altre parti. Nella Bibbia, i Vangeli e gli Evangelisti sono quelli che sono gli scritti principali che ci parlano di Gesù Cristo. È appurato che non sono dei documenti storici, ma che sono semplicemente dei racconti, delle raccolte di fatti che sembrano siano accaduti e comunque sono raccolte da persone che non li hanno vissuti direttamente e sono di diversi decenni posteriori. Cioè non, penso che il primo Evangelo probabilmente deve essere degli anni 70-90, cioè verso la fine del secolo, dunque almeno 50-60 anni dopo la presunta esistenza di Gesù Cristo. I quattro Vangeli vengono detti canonici perché semplicemente ne esistevano una settantina e a un certo momento la Chiesa ha deciso che era meglio scremare e vedere quello che aveva senso, per cui ne prendono quattro. Voltaire dice che li hanno appoggiati su un altare, poi sono usciti, hanno sbattuto le porte, quelli che sono rimasti sull'altare erano quelli canonici, gli altri caduti non c'entravano niente. Voltaire era una linguaccia, come si dice, ma probabilmente non era molto fuori dalla realtà. E soprattutto hanno il solo scopo di dimostrare che Gesù è il Messia, perché è l'unico modo per cercare di avere questa possibilità di in certo senso di confermare la realtà storica di questo Signore. E soprattutto fanno un'opera di adattamento di versetti, di profezie dei vecchi profeti ebraici e tolti dal Vecchio Testamento, proprio per cercare di dimostrare, almeno a livello letterario mitologico, che un personaggio, e tant'è vero che si riscontrano diversi aspetti strani, una volta un profeta, una volta un taumaturgo, una volta il figlio di Dio, e infine è un po' la ricerca del Messia. Cosa si conosce del Gesù Cristo come personaggio storico? Bisogna dire subito che non si conosce niente. Non si conosce il nome, non si conosce il luogo di nascita, non si conosce la data di nascita, e nemmeno quella della morte, e soprattutto non si conosce nemmeno l'aspetto fisico. L'aspetto fisico più o meno tutti i personaggi, non so, Gesù Cristo non ha mai scritto niente, e dicono anche Socrate non ha mai scritto niente, però Socrate, bene o male, hanno dei riscontri o di suoi discepoli, o hanno comunque dei riscontri almeno di un'idea di come era fisicamente. Di Gesù Cristo non c'è assolutamente niente, non c'è nessuno che lo descrive, nemmeno i famosi Vangeli che sono caduti dall'altare. Cosa si conosce? Allora, non si conosce il nome, perché Gesù sembrerebbe sia Jesus ed è un nome ebraico, però c'è qualcuno che contesta anche quello. Dicono che sia un nome greco, e che poi si è cercato un po' di farlo assomigliare a un nome ebraico, nel senso che il nome giusto sarebbe Giosuè, e non si capisce perché non sia stato chiamato Giosuè direttamente da subito, e dunque sembra che sia un'influenza di qualcuno che cercava di scrivere. Appunto, i Vangeli sono stati scritti principalmente in greco, hanno cercato di inventare dei nomi e poi li hanno praticamente collegati, e ritornando si è trovato questo Gesù, ed è usato solamente nei Vangeli, mentre Cristo, che è un nome, è una parola greca che significa unto, è greco ed è utilizzato solo da Paolo di Tarso, che era un cacciatore di cristiani, che poi sulla via di Damasco è caduto dal cavallo, ha picchiato la testa e si è svegliato cristiano, ed è lui che praticamente costruisce. Ci sono dubbi anche sulla figura storica di Paolo, il famoso San Paolo, però perlomeno anche lì abbiamo perlomeno una descrizione così. Lo descrivono basso, grosso, con le spalle larghe, mezzo storto, pelato. Se non mi sbaglio, negli Atti degli Apostoli dicono anche che ha fatto una volta un discorso in chiesa e uno che era appoggiato alla finestra è caduto e si è fatto male e ha dovuto andare anche a fare il miracolo. Per alla fine sono cose molto, molto strane. Comunque è l'unico che comincia a usare Cristo. l'uso congiunto di Gesù Cristo è posteriore ed entra in uso solo nel secondo secolo, e ci sono diverse opposizioni dalle sette che vedevano più la parte ebraica, opposizione da quelli che vedevano più la parte Cristo, cioè la parte più mitologica, più vicina all'immagine del sole, o comunque di questo ente divino. Non si conosce nemmeno il luogo di nascita. Nei Vangeli dicono che sia nato a Betlemme, ma questo è semplicemente un accorgimento per far rispettare una profezia del profeta Michea, che dove, in quanto diceva che il Messia doveva discendere dalla casata di David, e dunque e anche Betlemme era il posto dove discendeva David. Il problema era che giustificare, visto che lo si conosceva come Gesù di Nazareth, che era un'altra località interessante dal profilo religioso ebraico, hanno dovuto inventare un po' quella del censimento, del fatto di doversi spostare per andare a dichiararsi nel luogo d'origine, quello che i romani non avevano mai fatto, perché non era importante il luogo d'origine, ma era il posto dove abitavano. Per cui vedremo poi che ci sono altri problemi nel fatto che si parli di Betlemme. D'altra parte, Betlemme significa la casa del pane, e la casa del pane è un simbolo, un luogo mitologico, comunque anche fisico, ma che comunque fanno sempre riferimenti a divinità che fanno riferimento alla primavera, al rinnovo della vita e tutto, e dunque ci sono probabilmente dei legami vari tra il fatto del Michea che dice che deve discendere da David, ma anche altri legami che sono sempre comunque legati a cose mitologiche. Non si conosce l'anno di nascita. Nel 525 dell'era volgare, il monaco Dionigi il Piccolo viene incaricato di trovare un sistema per calcolare la data della Pasqua, e facendo questo dice: ma perché continuare a contare gli anni dalla fondazione di Roma? Cerco di stabilire quando è stato l'anno di nascita di Gesù Cristo, così almeno abbiamo un altro modo di calcolare, che è quello giusto per la nostra Pasqua. E lo determina al 752 della fondazione di Cristo, e si dice che abbia sbagliato il calcolo. In effetti non ha sbagliato il calcolo, ha il problema che deve far giocare quello che dicono i Vangeli, perché gli unici testi che fanno riferimento a dei dati storici sono i Vangeli, ma siccome non sono ben congeniati e devono soprattutto continuare a far giocare qualcosa, una volta è il re Erode che deve uccidere gli innocenti, una volta è il censimento, e così, solo che Erode è nato nel meno 4 e il censimento del più 6, dunque ci sono 10 anni che non arrivano a funzionare, perché dovrebbero essere al massimo una differenza di un anno, per cui lui è costretto in un certo senso a inventare. Adesso si dice che probabilmente ha sbagliato di 3-4 anni, e probabilmente bisognerebbe spostare l'anno di nascita almeno 3, almeno 4, ma in effetti poi non giocano altre combinazioni di date. E dunque non si conosce nemmeno l'anno di nascita. Non si conosce nemmeno il giorno di nascita, perché il 25 dicembre, quello che adesso è il nostro Natale, tra virgolette, viene fissato solo nel 326, cioè dopo 336, dopo la morte dell'imperatore Costantino, che è quello che dà praticamente il potere alla Chiesa Cattolica nel 313, col fatto di cercare di rendere di cominciare a dare l'importanza alla Chiesa cristiana come Chiesa di Stato. Però lui continua a essere un devoto discepolo del Dio Sole, tant'è vero che fonda chiese del Sol Invictus, e dunque è molto strumentale il fatto di legarsi alla Chiesa cristiana. Si lega a lei semplicemente perché in questi tre secoli di vita è stata capace di creare una struttura burocratica e di notevole potere e di controllo, soprattutto di controllo sociale delle classi meno più disagiate, ma anche ha fatto breccia nelle classi alte, rincoglionendole completamente, perché poi credono a delle cose assurde. Il 25 dicembre dunque viene fissato e solo per la Chiesa Cattolica e i protestanti, mentre gli ortodossi continuano a festeggiarlo tuttora il 6 di gennaio. E non è una questione del fatto che sia la differenza di calendario tra il gregoriano e il giuliano, ma semplicemente loro fanno altri ragionamenti su quello che dovrebbe essere il giorno della nascita. Bisogna dire che è stato fissato anche attorno al mese di marzo, qualcuno aveva fatto il calcolo, doveva essere nato il 26 marzo di un certo anno che non si sa, comunque ecco, per dire che nemmeno il giorno si conosce. Non si conosce il giorno della morte, e questo è ancora più interessante perché la Pasqua cristiana, che non è uguale, non cade lo stesso giorno della Pasqua ebraica, cade sempre la domenica successiva al primo plenilunio, successivo all'equinozio di primavera. Calcolo è assurdo comunque, ed è per quello che mentre la Pasqua ebraica è sempre un certo giorno di un certo mese e dunque cade anche durante la settimana, per i cristiani è solo la domenica e dunque è sempre il venerdì di morte, il venerdì della passione, cosa quello che conta. E questo è secondo me l'aspetto più lampante del fatto che sia l'aspetto mitologico del Gesù Cristo, perché se fosse morto un giorno sarebbe quel giorno e non sarebbe un giorno che continua a cambiare tutti gli anni a dipendenza di quando c'è la luna piena o meno. Non si conosce nemmeno l'aspetto fisico, perché nessun, ho già detto prima, nessun documento lo descrive. Nei primi tempi lo si raffigura come un uomo sbarbato, poi comincia a diventare ad avere la barba e poi ha i capelli lunghi. E allora ci sono, diciamo, alcune immagini. Quella che vedete è una moneta di, non mi ricordo più di che imperatore, comunque deve essere del secondo o terzo secolo, e questo è Gesù Cristo, lo vedete che ha i capelli relativamente corti, comincia ad avere un po' di barba, mentre quella più in là, quella statua, è sbarbato. È una chiesa, è una delle prime chiese italiane. Poi sotto ci sono quelle classiche, no? Uno è un mosaico di Ravenna, l'altro è un'icona ortodossa, e poi c'è la sindone, la famosissima sindone di Torino, che si dice sia del XIV secolo, secondo le ricerche che hanno fatto, e ci dicono altri che invece chi ci crede effettivamente, che non è vero, che siccome ha toccato il corpo divino del Cristo, allora sicuramente adesso anche il carbonio ha qualcosa che non segna più l'ora esatta o l'anno esatto. Da queste sono un po' le parti, diciamo, di quello che sono le raffigurazioni, diciamo così, artistiche, no? Del Gesù Cristo. C'è qualcuno che ha voluto fare il CSI e si è immaginato di come potrebbe essere il Gesù Cristo riprendendo i tratti fisionomici principali dei semiti, e questo è il risultato. Questa è una ricerca di un certo dottore che si è messo a cercare e dice: questo qui secondo me è il vero volto del Gesù Cristo. Si può dire un'altra cosa, che non so, per chi ha letto o vorrà leggere l'autobiografia di Malcolm X, quando Malcolm X entra in prigione, a un certo momento entra in contatto con i musulmani neri e loro lo mettono in guardia immediatamente contro i bianchi, dicendo: fai attenzione perché il diavolo è bianco, i bianchi sono il diavolo, anche Gesù Cristo era un nero come noi. E allora da questo comincia a riflettere, dice: effettivamente non è un VASP, ma è qualcosa d'altro, è un semita, è un arabo, è qualcosa, è comunque uno più colorato di quegli smortoni che giravano fuori dalle prigioni. Il Cristo nella mitologia. Queste sono un po' delle immagini in parallelo oppure in sequenza, di, solo per far vedere come alcune immagini di quelle che di come ci raffiguriamo il Gesù Cristo sono in pratica riprese da sculture, da bassorilievi, da altre immagini che sono state precedenti. In questa vedete il Dio Mitra e l'immagine del Cristo Re. Alla fine tutte e due hanno delle posizioni simili, o hanno questa boccia, in una parte raffigura il mondo e l'altra il regno del divino. Comunque ci sono sempre qualcosa che richiama delle altre cose mitologiche che sono precedenti. Questo è Mitra, la prima, quella coi cavalli, è il Mitra quando va, Mitra è un'altra raffigurazione del Dio Sole, e quando va coi cavalli e sale in cielo e praticamente descrive il senso del sole. L'altro è una immagine del Sole Invictus. Il Sole Invictus è quello che rimane su in alto, mentre l'altro è ancora Mitra mentre sta sgozzando il bovino, non so se il bue o il toro, qualcosa del genere. E comunque sono sempre raffigurazioni di personaggi che raffigurano il Dio Sole. Un altro è Tammuz, che è un'altra divinità. Vedete la somiglianza nella posizione, nel fatto di avere il bastone, di quello che è poi passato come il buon pastore. In questo ci sono per esempio Orfeo, che è un personaggio mitologico greco, dove lo raffigurano crocifisso, ed è molto simile alle prime raffigurazioni della crocifissione del Cristo. E poi ci sono in questi diversi altri colleghi, no? Altre immagini o del Dio Sole, come Horus, una divinità egiziana, il Dioniso Baco, che sono praticamente lo stesso personaggio, e sono non tanto discendenti, non tanto rappresentanti del Dio Sole, ma di questa voglia di rappresentazione del rinnovo della vita, no? Sono al di là di essere sbronzi da mattina a sera, sono anche molto legati alla primavera, alla voglia di vivere, eccetera eccetera. Adone ha una vita abbastanza simile in un certo senso a quella del Gesù Cristo. Non nasce da una vergine, ma quasi, nel senso che hanno un approccio un po' strano. Penso che Zeus abbia eiaculato su un sasso, poi lo sperma è caduto in terra, è stato ripreso da un albero e una signora vergine è andata a mangiare il frutto e alla fine è rimasta incinta e ha dato origine a questo Adone, ed è uno di quelli che poi scende, penso che sia un altro di quelle figure che scendono agli inferi. Attis è un altro degli dei della primavera. Dunque sono colleghi, nel senso, in parte perché raffigurano il sole, dunque la vita, in altro in quello che è il rinnovo della vita. Questo invece è un po' l'aspetto del come arriva ad essere concepito Gesù, perlomeno dal punto di vista mitologico. Allora, prima è l'Annunciazione, non si vede bene, ma appena sopra la testa dell'angelo c'è una colomba, che è lo Spirito Santo, che va a ingravidare questa Vergine Maria. Sotto ci sono delle cose molto più plastiche, molto più interessanti, e Zeus che si accoppia con Leda sotto forma del cigno, no? E poi appunto hanno la loro storia d'amore, e mi sembrava che fossero anche abbastanza interessanti perché sono altri modi di vedere come la nascita, o comunque il fatto di essere concepiti come dei o come discendenti da persone divine hanno sempre un po' gli stessi agganci, cambiano nelle misure degli uccelli. Poi perché uno è il cigno e l'altro è una colomba. Poi ci sono altri aspetti di quello che è il Gesù bambino, no? Il Gesù bambino dove lo si vede come legato alla mamma, ed è una cosa importante anche questo, perché la religione di Mitra è praticamente convivono per un certo fino al III secolo in Roma. Ci sono tutte e due, sono due delle religioni che potrebbero essere vincitori, deve essere comunque una sull'altra. E Mitra dicono che abbia perso semplicemente perché non aveva la Madonna, cioè non è stato capace di integrare all'interno della religione una figura femminile, mentre il cristianesimo l'ha fatto sputtanando tutto quello che ha detto prima, perché prima non doveva essere così. Comunque ha ripreso la Madonna e questo ha permesso di trovare un altro aspetto della religione, e dalla Madonna naturalmente possono far risalire ancora a questo Dio, a questo bambino che è comunque discepolo di Dio. E lo vedete prima in un'altra visione del, penso che sia Iside con Horus in braccio, e poi questa che è una, ecco, questa dove vedete che è dappertutto, in tutto il mondo ci si scontra con questo, cioè dall'estremo oriente al mondo occidentale praticamente sempre ci sono degli dei bambini che hanno acquisito la parte divina tramite la mamma e da una divinità. La formazione del cristianesimo. Il cristianesimo, come dicevo prima, si è sviluppato sempre a spese di altre credenze, cioè è stato capace di integrare altri modi, di altri aspetti, ma proprio nelle cose anche banali, no? Prendendo senza ritegno, proprio accaparandosi senza ritegno di altre cose, e poi dicendo, le sapevo già io, cioè mi viene in mente un po' il Berlusconi qui vicino a noi, e imbrogliando soprattutto i fedeli come lui imbroglia gli italiani. Nel senso che la morale, da noi ci vengono a dire che per fortuna c'è il cristianesimo, c'è il cattolicesimo, perché altrimenti saremmo stati dei buzzuri senza nessuna morale. E bisogna dire che le principali detti morali che sono stati messi in bocca a Gesù Cristo erano già tutti precedenti di secoli, precedenti di pochi decenni. L'amo il tuo prossimo era già una cosa che veniva applicata in Cina, ma soprattutto veniva applicata da Hillel, che era un ebreo di alcuni decenni precedenti a Gesù Cristo. Porgi l'altra guancia, penso che sia una massima anche confuciana. Il perdonali perché non sanno, anche quella sono comunque delle cose che non sono state inventate dai cristiani, e spudoratamente comunque continuano a far pensare che se non ci fossero stati loro saremmo molto più barbari, dimenticando che uno degli ultimi che ha condannato la schiavitù è proprio la religione cristiana. Anche la dottrina era già praticata da religioni precedenti. Si trovano sempre degli elementi dottrinali negli assiro-babilonesi, negli egiziani, nei greci e così. La vita eterna, per esempio, è una cosa da egiziani e da assiro-babilonesi. Come si dice, gli ebrei non la conoscevano, la vita eterna semplicemente non esisteva. Il giudizio universale è famoso principalmente quello degli egiziani, il libro dei morti è proprio il giudizio fatto per ogni persona. Il celibato era praticato in alcune sette, ma alcuni che facevano riferimento religioni che facevano riferimento ad alcune divinità greche e latine. La supremazia dello spirito è un po' quella storia del Platone, ma anche quello che si diceva prima, il filone l'alessandrino, e questa supremazia dello spirito che viene poi integrata man mano. All'inizio non è così, è una cosa molto, molto, molto più carnale, e alla fine invece diventa una cosa molto più spirituale. Il culto cristiano è una coppia di cerimonie religiose precedenti. Ancora praticamente le religioni ha sempre pescato un po' dappertutto. Mi sono limitato, diciamo, a non andare oltre il Medio Oriente, ma probabilmente si poteva andare anche molto più in là. L'ostensorio, la mitra, non il mitra, il cappello del Papa, il pastorale, l'incenso, e questo lo vedete, l'ostensorio è proprio un simbolo proprio del sole, no? Di questi raggi che si diffondono, e lo ritrovate abbastanza spesso o come aureola o come i raggi del dio Mitra. E l'altro è un po' l'evoluzione di quello che è la Mitra. Prima erano, il primo che vedete era una religione che aveva come divinità il pesce, e dunque si mettevano il cappello a forma di pesce, il pesce che aveva la bocca aperta. Poi si evolve un po' in quella sotto, e poi vedete che praticamente il Paolo VI e così sono, il Giovanni XXIII sono praticamente un po' la continuazione di questo modo, per dire che hanno saccheggiato di tutto, dal modo di vestirsi, dal modo di parlare. Non ho trovato delle cose del... Ah, beh, Giovanni, sì. Ecco, d'altra parte, se non è esistito, come dimostrarlo? Cioè, come dimostrare l'esistenza di una cosa che non esiste, no? D'altra parte, bisogna dire che è chi afferma una cosa che deve dimostrarlo. E comunque bisogna dire che la Chiesa non l'ha mai fatta. Se avesse avuto una prova, penso che ce l'avrebbe sbattuta in faccia, e saremmo qui a parlare di altre cose e non di questo. Semplicemente è impossibile. Allora, ci sono degli altri personaggi che probabilmente è difficile dimostrare la non esistenza. Ho messo il puffo perché una volta uno dei miei figli mi dice, lo so che il Gesù bambino non esiste, ma i puffi che vedo in tele. Ecco. L'altro è il Babbo Natale, che adesso diventa una cosa, e il nostro Guglielmo Tell. D'altra parte bisogna dire che Babbo Natale è un mito moderno, è solo dagli anni 30, no? che viene raffigurato così. Non so, adesso lo troviamo attaccato ai muri, fuori dalle finestre, no? alla manora, eccetera, eccetera. Per dire come un mito può anche attaccare molto facilmente e in tempi relativamente brevi, e quasi non essere più messo in dubbio. Penso che le raffigurazioni delle cose di biscotti di Babbo Natale, dove il San Nicolao, no? Praticamente la maggior parte dei bambini non lo conosce più, e penso ci siano anche dei cattolici integralisti che vanno a bruciare le effigie di Babbo Natale perché dicono che non è vero, non è quello reale, è troppo pagano. Questa è un po' la parte filosofica, visto che mi chiedeva lui di fare quello. Allora, dico che il credente crede in un solo Dio, e quello della sua religione, mentre l'ateo deve credere in tutti, perché tutti sono esattamente allo stesso livello, no? Questo l'ho letto su un libretto interessantissimo, Corso accelerato di ateismo, scritto da due professori spagnoli. Al primo momento che l'ho letto mi sembrava strano, poi in effetti dico no, è vero, perché alla fine ci si può divertire anche per questo, ma è vero che è anche interessante andare a vedere chi era Orfeo, chi era Tammuz, chi era Osiris e così, perché non sono per niente legato a dover pensare che non sto sbagliando, non è giusto, e quello lì sta raccontando una valle. Tutti raccontano valle, ma può essere anche divertente quello di sentire. E dunque questo è un po' per rispondere a quelli che vogliono mettere la religione nelle scuole dicendo che altrimenti ci manca qualcosa. Non è vero che ci manca qualcosa. Abbiamo tutto, abbiamo di più dei credenti perché possiamo permetterci di credere e di divertirci alle varie balle che tutti raccontano. Per finire vorrei parafrasare il maestro Yoda dicendo che il maestro Jedi vi augura sinceramente che la miscredenza sia con voi e un ottimo solstizio di inverno. Forse dico ancora un paio di balle. Il libro Gesù Cristo non è mai esistito ha avuto diverse edizioni in diverse lingue, dicevo prima in spagnolo e in portoghese. Ne è uscita anche una versione ridotta in francese e hanno tradotto solo il primo capitolo. Allora, la cosa interessante è stata che 50 anni dopo, nel 1956, uno studioso francese, Giffaut, che è uno studioso razionalista francese, ha fatto uscire questa, la Fable de Jésus Christ, e praticamente riprende le stesse argomentazioni, la stessa struttura di Millesmo, lo fa 50 anni dopo con documenti più aggiornati. Questo mi sembra che sia una cosa importante per il fatto che l'hanno in pratica, hanno confermato quello che aveva detto, dunque per quello che dico non è un libro vecchio, non è assolutamente un libro vecchio, nel senso che è ancora abbastanza moderno su come è l'approccio. Poi la lingua sì, è un po' arcaica, però è una, non so, penso che sia ancora interessante. Forse un'altra cosa da dire è il perché ha voluto scrivere questo libro. Perché uno può dire, poi se sei ateo cosa te ne frega di scrivere che Gesù Cristo non è mai esistito. E lui lo fa con una motivazione, secondo me, molto moderna, che è quella di dire che vuole togliere questa apparenza alla morale che deve essere solo religiosa, ma che la morale è una cosa umana di rapporti tra persone. E che dunque è importante per quello, e dunque la dimostrazione è che se non è una religione, non è la religione quella che dà la morale, è che tutti gli uomini possono avere un buon rapporto con le altre persone, altrimenti uno che non è di quella religione, che è nato prima o che è nato fuori da quella religione, quasi quasi gli si può rimproverare che non sarà mai morale. Ecco. E mi sembrava la cosa più interessante, ed era questo l'aspetto interessante, il taglio moderno del pensiero di Millesmo, al di là di quello politico che, non so, su quello ho molti dubbi sulla che fosse già moderno ai suoi tempi. Registrazione a cura di Scatola Nera, il contenitore. Maggiori informazioni su scatolanera.noblogs.org.